compiere la chiara di Roma. Sì. Sei connesso. Sei connesso. Connesso. Sei connesso. Sei connesso. Fratello, sei connesso. Guarda la radio. Sei connesso. Fratello, sei connesso. Nastra Radio Roma.org. Woke up this morning looking for my diamond jewel. I woke up this morning looking for my diamond jewel. Besomer blues. Oh, Papa Sugar Papa, how come you do me like you do? Papa Sugar Papa, how come you do me like you do? I done everything you asked me, trying to get along with you. Be a dog no more. Thank you. you're sick. Someday let's try again. One more time. Crazy music in the trees. See the flowers dancing in the breeze. Old man moon begins to glow. He's joining in the late, late show. Birds that should be dreaming. Sun and chirping a song. While fireflies are gleaming. We kiss, kiss all night long. Then we amble back to my say goodnight and then we kiss some more. Guess you know I like you so. It started at the Late Late Show.

possiamo incominciare un'altra Radio Roma. Segui social. Podcastesimo, podcastesimo. Colo, colo. Eccolo! Un'altra Radio Roma. Ah ah. Nuova religione, il podcastesimo. Ah ah. Podcastesimo. Certo. Podcastesimo. Ah ah. Un'altra Radio Roma. Ah ah. Podcastista. Un podcastista. Ah ah. Podcastesimo, podcastesimo. Un'altra Radio Roma. Ah, ah. Onore santissimo podcast della regione del podcastismo. Ci avevano chiamato ragazzi, ma il podcastismo va avanti, un'altra Radio Roma. Segui social. Podcastista. Un podcastista. Un'altra Radio Roma. Segui social. Un'altra Radio Roma. Podcastismo. Nuova religione. Podcastismo. Religione e un momento. Segui social. Io sento squillare qualcosa, già ci sono venuti a piacere. No, no, sei credibile. Ah,

Un'altra radio ramo, un'altra rodia. Un'altra radio ramo, Nartra Rodia. Nartra Rodia Ramo. Solo musica Crazy Couples. Mister Brontolo, Mister Campo, Mister Gasperino, Mister Cocot, solo musica Creative Commons. Nartra Radio Roma. Nartra Radio Ramo. Nartra Radio Roma. Nartra Radio Ramo. Nartra Radio Roma. Solo Nartra Radio Roma. Thank you.